Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo del restauro di uno dei monumenti più famosi di tutta l'antichità e di uno dei più importanti per quanto riguarda la storia romana. Parliamo della Domus Aurea accanto al Colosseo, la residenza dell'imperatore di Roma, fatta costruire da Nerone proprio dopo il famoso incendio che nel 64 d.C. devastò la città. Si tratta di un restauro di una complessità enorme per le dimensioni dell'edificio. Pensate che ha una superficie di 3 campi da calcio e per il suo valore artistico, piena per esempio di affreschi. Così è stato necessario chiuderla quando nel 2006 sono cominciati i lavori e nonostante questi procedano anche a buon ritmo, ancora oggi il monumento è chiuso. Allora la sovrintendenza speciale che coordina questo restauro ha avuto un'idea, un blog con cui perlomeno tenere aggiornati i cittadini sull'avanzamento dei lavori, con cui spiegargli come vengono spesi i soldi. E questo blog è diventato alla fine un modo per tenere un po' aperta la Domus nonostante i restauri. Chiara Albicocco ne ha parlato con Fedora Filippi, archeologa e direttrice scientifica della Domus Aurea, che prima di tutto ci dà qualche informazione in più su questo incredibile monumento. Sentiamo. La Domus Aurea è un monumento molto complesso, anche a cominciare dalle sue dimensioni. Sono 150 ambienti oggi sottoterra, perché la Domus Aurea fu costruita come una grande residenza sul Colle Oppio da Nerone, ma poi non molti anni dopo, con Traiano, divenne ipogea, perché Traiano costruì al di sopra di questo monumento e lo utilizzò come fondazione le famose terme di Traiano, che sono tra le più monumentali di Roma. La complessità dei lavori di restauro è proprio questa, perché rimane diciamo sotto al suolo calpestabile, come dire, esatto. E sopra è sovrastata da un parco, da un giardino. Ecco, da un grande giardino, il grande parco dell'Oppio, e questo comporta e ha comportato uno dei problemi più grandi per la conservazione di questo monumento, perché poi nel tempo sono state inserite anche alberature. Queste alberature hanno sviluppato le radici, certo, che vanno a incunearsi all'interno della strutture sotterranee della Domus, e molto spesso, come si vede anche nel nostro blog, abbiamo mostrato gli effetti che producono queste alberature all'interno del monumento. La Domus è estremamente importante per la cultura antica e anche per la cultura rinascimentale italiana, per le sue pitture. Ecco, sì, infatti è talmente importante che dal vostro blog ho preso questo dato: gli affreschi e gli stucchi su pareti e volte ricoprono una superficie di circa 30.000 metri quadri, quindi 30 volte più, sì, di quelli della Cappella Sistina. Esatto, perché bisogna rendersi conto di questi parametri dimensionali che sono un elemento fondamentale per la conservazione di questo monumento. Cioè si comincia da una parte e poi si ricomincia di nuovo. Insomma, tengo anche a dire che la Domus, quando fu scoperta nel Rinascimento, fu oggetto di grande interesse da parte di pittori importantissimi come Pinturicchio, lo stesso Raffaello, che utilizzarono le decorazioni che vedevano per poi trarre ispirazione. Tra l'altro la cittadinanza è molto legata a questo luogo, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista della vivibilità di tutto quel parco che è sovrastante, e per questo voi avete deciso in qualche modo di, questa l'idea diciamo innovativa che voi avete avuto, di pubblicare i costanti aggiornamenti, l'avanzamento dei lavori del restauro, proprio per far partecipare il cittadino, sia dal punto di vista, come dire, di commento, per avere suggerimenti, ma anche per rendere pubblico come vengono impiegati i fondi, i soldi. Esatto. Allora, questa è stata una decisione che abbiamo preso il nostro staff, che è composto da diversi tecnici, archeologi, architetti, restauratori, fisici, ingegneri, che lavorano veramente tutti i giorni all'interno di questo monumento, perché da un lato il monumento è chiuso, quindi non possiamo farlo vedere per motivi ovvi di sicurezza, e dall'altra parte però noi volevamo far sapere che c'è un grande lavorio all'interno di questo monumento e secondo una strategia che la soprintendenza si è data e che quindi spendiamo i soldi pubblici nel modo più attento e oculato possibile. E soprattutto l'altro aspetto che ci premeva di far conoscere attraverso questo blog, quindi dando anche ovviamente una trasparenza a livello economico dei fondi, di come li spendiamo, del flusso, però voglio dire, volevamo anche trasmettere qual è la complessità della problematica che stiamo affrontando. Cioè il fatto che il luogo sia chiuso per così tanto tempo, ecco, sì, non è un disagio, no, e un rallentamento dei lavori, ma indice appunto di complessità nel recupero. Esatto. Lei consideri che giornalmente all'interno del monumento agiscono tra tecnici, maestranze, restauratori, operai, tecnici degli impianti, eccetera, più di 70 persone. Quindi è un grande, io la volevo chiamare la fabbrica della Domus Aurea, un po' come la fabbrica del Duomo, del Duomo, no? Di nel Milano, senso sì, che è un grande lavorio che c'è all'interno. E quindi trasmettere anche all'opinione pubblica il senso della complessità della problematica della conservazione di questo monumento, perché il giardino che c'è sopra, che ha uno spessore di 3 metri, grava sulle strutture antiche ovviamente, però d'altra parte non lo possiamo togliere se non con la certezza di non danneggiare le pitture. E certo, perché oggi all'interno si è creato un clima con un'alta percentuale di umidità, tra il 90% di umidità, e non la possiamo traumatizzare. Abbassare improvvisamente. Esatto, quindi se tocchiamo da una parte rischiamo di danneggiare un'altra cosa. Chiaro. Quindi, Filippi, ci ricordi il nome del blog? Il blog si chiama Il Cantiere della Domus Aurea. Ecco, che è facilmente trovabile su qualsiasi motore di ricerca, e io lo so che voi ci tenete a specificare giustamente che è un blog a praticamente costo zero, open source, e diciamo che è un bel modello che potrebbero usare tutti i cantieri delle soprintendenze del nostro, certo, paese. È un impegno perché noi stessi lo scriviamo, quindi ognuno segue i suoi settori della conservazione, del restauro degli affreschi, eccetera. Pensiamo che questa possa essere una formula importante, soprattutto in un momento come questo per la pubblica amministrazione, di far conoscere e di specchiarsi all'esterno con le problematiche che abbiamo. Ci sono la possibilità di parlare con noi attraverso il blog, con dei commenti a cui noi cercheremo anche di rispondere. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, ci sentiamo domani.